tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Sarà che un tempo c'era meno telecamere, sarà che c'era più attenzione al gioco e ai giocatori e meno agli allenatori, ma una sceneggiata come quella di Mourinho sabato sera io credo non si fosse davvero mai vista. Avrei voluto cominciare le mie letture quotidiane stamane con il commento su Mourinho di Candido Cannavò, purtroppo Candido, che gli avrebbe levato la pelle come merita, ci manca da un anno, esattamente un anno oggi, ed è stato ricordato stamane in Gazzetta con la nascita di una fondazione per lo sport intitolata al suo nome, oltre che commemorato dal meglio del nostro mondo sportivo e non solo. Tra gli altri, anche da Gianni Mura, che stamane su Repubblica, col suo stile che è diverso da quello di Cannavò, ha scritto in buona sostanza quello che credo avrei letto, parola più parola meno, da Candido, che in parte di quest'articolo, eccola qua: concentrazione e tensione agonistica sono una cosa, isteria un'altra. C'è da chiedersi quanti altri scudetti servono all'Inter, vecchia e nuova, per cancellare la sindrome da accerchiamento, la perenne voglia di sentirsi perseguitati da poteri occulti. La più imponente pagnolata che si ricordi in uno stadio italiano era rivolta a un arbitro che in una bolgia stava imponendo il rispetto del regolamento. Chissà se qualcuno degli sventolatori ha avuto un ripensamento davanti alle moviole. L'arbitro ha indovinato quasi tutto a San Siro. I giornali, per quel che può contare, gli hanno dato la sufficienza anche ampia. Io avrei evitato l'ammonizione a Eto'o per simulazione. E nel secondo giallo a Cordoba c'entra la dabbenaggine del difensore e un po' la scena dell'attaccante. Se Tagliavento ha fatto sconti a qualcuno, li ha fatti a Stankovic e Milito, nonché a Pozzi, che meritava il secondo giallo per simulazione. Ma chi obbliga Samuel a un intervento pesante da dietro a metà campo? Il secondo, il braccio allargato, è per salvare la porta, ma il primo? E Cordoba, con l'esperienza che ha e la squadra già in 10, ancora una volta a centrocampo, cioè i falli più inutili, non poteva starci più attento. Non so cosa sia accaduto nell'intervallo, mai visto una squadra con due uomini in più rinunciare al gioco come ha fatto la Sampdoria. Vero pure che l'Inter in 9 ha dato una grandissima dimostrazione di solidità, organizzazione, e questo va a merito del lavoro di Mourinho. A suo carico invece c'è una squadra col sangue agli occhi già in avvio, prima che i presunti torti si materializzino. È molto pericoloso anche per l'Inter l'atteggiamento di Mourinho, che non è un ingenuo e quindi deve sapere che si rischia a camminare in una polveriera sempre col cerino in mano. Molti speravano che aiutasse il nostro calcio a guadagnare in maturità, in cultura. Invece siamo tornati ai tempi del Borgia. Sai che bell'affare. Ripeto, firmato Gianni Mura stamane su Repubblica. Alcuni commenti sulla giornata di ieri in attesa dei vostri interventi. Comincerei, in ordine di classifica, da quello di Ranieri. Noi siamo una buona squadra, lo stiamo dimostrando, però ecco, io non è che mi voglio nascondere, è che voglio aspettare, perché noi stiamo concorrendo su tre fronti, non vogliamo lasciare nulla di intentato, però insomma adesso come adesso mi sembra importantissimo passare il turno in UEFA, anche perché la UEFA è un traguardo appetibile, ci sta molta carne al fuoco, però non vorrei che ecco, la lasciamo sul fuoco e si bruci, insomma, ecco. Certo che se questo è il signore, e non sto parlando di Ranieri, che si dichiara colui che deve indirizzare ed educare Balotelli, povero Mario, in che mani è finito? Il messaggio è firmato Roberto da Lodi. Paolo da Prato: è inutile che noi interisti ci lamentiamo per l'arbitraggio, l'espulsione era sacrosante, sarei invece molto preoccupato per il nervosismo con cui ci avviciniamo alla partita dell'anno. Sento puzza di brutta figura ancora una volta, ma io Paolo invece non sarei così pessimista sulla partita di mercoledì, perché cioè lo sarei dal punto di vista nervoso, su questo non c'è alcun dubbio, ed è questo che rende assurda a maggior ragione la partita dell'altra sera. Però non mi sembra che il Chelsea sia una squadra inattaccabile, tantomeno in difesa, quindi se l'Inter recupera la serenità smarrita l'altra sera, o forse quell'eccesso di carica preventiva che certamente è andata a suo stesso danno, io credo che sia una partita che si può giocare, provare a giocare, sempre partendo dal presupposto che i favoriti sono gli altri, ma non in maniera così netta come in passato, io credo. In ordine di classifica abbiamo detto, e quindi Leonardo sulla vittoria di ieri sera a Bari. C'è stata non solo una prestazione tattica perfetta, ma l'approccio alla gara, ma anche il modo in cui ci siamo comportati durante tutta la partita. Sicuramente una partita difficile, non difficile perché si presentava dopo una sconfitta in Champions, ma difficile anche per un Bari che forse non è il miglior momento, diciamo così. Siamo riusciti a controllare la partita avendo sempre la palla, mettendo sicuramente il Bari in grosse difficoltà per ripartire o per gestire la palla. Per quello credo che è stata veramente una prestazione completa di questa squadra. Vedo che gli ascoltatori spaziano da un da una nefandezza all'altra, per usare un termine che Abete ha gettonato la settimana scorsa. Giovanni de Bologna scrive: la presenza di Lippi e Cassano a Sanremo è uno dei momenti più bassi del calcio italiano, ma molto peggio il CT. Che tristezza, questo dà un'idea un pochino fotografa, per carità, fotografa tristemente la situazione. In ordine classifica, dunque, a chi tocca? Tocca alla Juventus e quindi a Zaccheroni. Onestamente, sono, al di là del risultato, sono molto soddisfatto della prestazione. In alcune situazioni abbiamo fatto fatica a contenere, soprattutto perché si è sentita molto dopo mezz'ora la fatica di giovedì, e non è sicuramente un alibi. Devo fare i complimenti all'arbitro, che non si è fatto minimamente condizionare dalla settimana appena passata. E questo era il buon Zaccheroni, il cui lavoro sta cominciando. Avevo una mail interessante, perché non vi dico quante ne sono arrivate e tra quante ho dovuto provare a destreggiarmi stamattina facendo una selezione proprio per proporvi qualche riflessione scritta. Eccolo qua, Lorenzo Vettorello scrive da Mestre. Le avevo già scritto quest'estate per dire che Grosso e Cannavaro sono dei, vabbè, lui usa una parola assolutamente non insultante, ma certamente poco lusinghiera, dice rottami, mi sembra un po' eccessivo. Comunque sarà un caso, aggiunge Lorenzo, ma mi sembra che anche Zaccheroni lo abbia capito, visto che sono tre partite che non li mette in campo e la Juve per pura combinazione queste tre partite le ha vinte. Che ne pensa? Beh, penso che qualcosa di vero ci sia. Dei tre consigli di Lippi alla Juventus, ieri ha cominciato a funzionare il terzo, cioè Candreva, ma sui primi due per il momento io penso abbia ragione Zaccheroni. Vabbè, possiamo andare avanti in ordine classifica, possiamo continuare ancora magari con Miccoli. Abbiamo la possibilità di crescere, siamo una buona squadra e cerchiamo di fare bene. Poi ecco, noi abbiamo la fortuna di incontrare le squadre che stanno sempre nel loro momento migliore, quindi anche quello, però andiamo a Torino, facciamo la nostra partita, difficilissimo, però sicuramente ce l'andremo a giocare. E questo era Miccoli, che ieri il suo tuffettino l'ha fatto così a occhio e croce, eh? Può anche darsi, per carità, può anche darsi che Muslera così un minimo di contatto piede contro piede lo crei, ma insomma il tuffo di Miccoli era un carpiato con avvitamento di quelli che si arriva lì con il cartellino giallo, ma non per il portiere, si arriva lì col cartellino giallo per l'attaccante. Muffa paura ai giornalisti perché vi dice quello che vi sta bene, scrive Ulisse. Ulisse, a me non fa nessuna paura Mourinho, però comincio a pensare che faccia molto male al calcio italiano, perché Mourinho col suo atteggiamento sta avvelenando i pozzi del calcio italiano e io credo che questo, dopo tanti sintomi, no? di avvicinamento a questo tipo di problema, penso che adesso ci siamo davvero, e credo che siamo andati davvero oltre e che il calcio italiano abbia il diritto, secondo me anche il dovere, di difendersi rispetto a questo avvelenamento dei pozzi. Conviene con me? Domanda Max Panicacci, che nonostante l'isteria collettiva non si era mai visto una squadra che in nove potesse dominare così, ma è vero, adesso dominare direi che non è forse il verbo più appropriato, potesse controllare così la partita. In ogni caso avere l'unica occasione, una e mezza, da gol rispetto alle altre. Io credo che quel secondo tempo abbia, surreale addirittura, perché è stato un secondo tempo surreale. Credo che abbia da un lato evidenziato dei limiti spaventosi, comunque dei limiti enormi della Sampdoria, che mi domando sinceramente come abbia fatto a mettere insieme 40 punti, e credo che questo vada ancora a maggior merito di Del Neri. Dall'altra parte mi domando cosa è successo davvero nell'intervallo, perché insomma io credo che quell'atteggiamento così remissivo che i sampdoriani hanno avuto nel secondo tempo dipendesse certamente da come minimo da questo clima, ripeto, surreale che si era creato sul campo e fuori, ma chissà, forse anche da qualche intimidazione di cui si è letto peraltro e qualcosina si è saputo e trapelato. Poi oggi, credo che già oggi, essendoci i recuperi di mercoledì, potrebbe pronunciarsi il giudice sportivo. Sentiamo Dario dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Signor Granzini, buongiorno, mi perdoni se lo disturbo, è sempre un piacere parlare con lei. Siamo qua apposta, volendo. Una domanda sciocca, io ho visto gli atteggiamenti di Mourinho, sto qua per l'amor di Dio a sindacare perché non aspetta a me, ma secondo lei lui cosa vuol dimostrare o di cosa ha paura? Io mi domando solo questo, sembra quasi che abbia paura di perdere qualcosa, non so cosa con queste, e si porta avanti, cioè porta avanti i passi, la mia idea, poi per l'amor di Dio lascio a lei che è più pratico. Ma di può darsi che sia, no Dario per carità, è un ragionamento, perché in effetti è ora di cominciare effettivamente a domandarsi che cosa ci sia. Che cosa giustifichi, che giustifichi non credo, ma che cosa possa spiegare un atteggiamento del genere? Io credo che Mourinho abbia una tattica di provocazione intrinseca nel suo carattere e un po' nel suo sistema di lavoro, no? Perché ormai lo ha dimostrato da noi da quasi un paio d'anni, l'ha dimostrato durante le permanenze in Inghilterra, prima non si sa perché prima non lo si conosceva da questo punto di vista e lo si frequentava fortunatamente meno. Credo che la recita di questo personaggio gli stia un po' sfuggendo dalle mani, io ho avuto questa sensazione perché non è la prima sceneggiata quella dell'altra sera, anche se è di gran lunga la più incredibile, però l'altra sera è andato oltre che sopra le righe in un modo incredibile, è andato completamente fuori proprio anche nel merito, cioè io ricordo di aver visto con sincera incredulità quando la sceneggiata più grande lui l'ha fatta sul presunto rigore di Eto'o, cioè sembrava che l'arbitro gli avesse fatto a lui, naturalmente, perché non è che le fa a lui, gli avesse fatto il torto più grande del secolo per come si è accovacciato, poi ha fatto una corsetta, poi con questo ghigno sardonico, poi la risata, ma era una maschera di nervi, no? Di nervi secondo me fuori controllo, per una cosa assolutamente gratuita, nel senso che forse Tagliavento in quella situazione poteva anche risparmiarsi l'ammonizione per evitare, considerato il clima in cui stava arbitrando, ma a termini di regolamento ha azzeccato anche quella ammonizione. A vedere la sceneggiata di Mourinho sembrava il rigore del secolo negato all'Inter, e questo secondo me è un cattivo segno sull'autocontrollo nervoso del soggetto. Da Mantova ha chiamato Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garantini. Buongiorno. Ecco, ascolti, io volevo parlare di Felipe Melo, ecco, tanto per dire. Sì. Perché sembra che, insomma, tutti ne dicono la sua, sembra che di qua e di là, insomma, che non abbia trovato ancora la sua giusta dimensione. Io però le chiedevo, ma non avrebbe le caratteristiche, ecco, secondo lei, la sua esperienza, di poter diventare un secondo Michael? Ecco, un Michael della Juve, magari utilizzandolo come esterno destro avanzato. Esterno destro Felipe Melo, guardi, io mi ricordo insomma alcune nefandezze, restiamo alle nefandezze che è un termine di moda, mi ricordo alcune nefandezze nel passato di gente spostata di ruolo o di pretesi spostamenti di ruolo, insomma ci siamo cascati tutti, anche i più grandi di noi, parliamo sia di tecnici che di cosiddetti critici eccetera, su libere interpretazioni e libere, adattamenti di vocazione ad altri ruoli. Questa proprio non Felipe Melo non ha minimamente il passo di Maicon, non ha lo scatto prolungato, non ha. Felipe Melo è un centrocampista, va titolare della nazionale brasiliana, va impiegato al meglio nel ruolo possibilmente che occupa nel Brasile, ma Maicon e Felipe Melo non sono parenti proprio, a cominciare dal passo e dal compasso. Renato Catania, buongiorno. Buongiorno dottor Garantini. Dica. Io volevo fare un paragone tra la sceneggiata di Mourinho e le dichiarazioni che ha fatto sabato, credo che sia stato sabato, Leonardo, dopo, diciamo, le solite battute di Berlusconi sul gioco del Milan. Sì. E con una pacatezza, un'intelligenza, un modo di fare proprio davvero signore. Si parla spesso, sempre, si fanno i soliti discorsi della delinquenza nello stadio, dei tifosi, diciamo, pseudo tifosi che fanno sulle nostre curve. Secondo me vedere un allenatore che si comporta in questo modo per chi già è macchiato di cervello non è che sia... Non è che sia un grande esempio, dice lei Renato. Io sono completamente d'accordo con lei. È in questo che dico che questi comportamenti stanno cominciando a far male al calcio italiano, proprio io temo in profondità, perché già abbiamo poco da cioè già abbiamo pochi esempi positivi da seguire, no? Però se ne abbiamo di così negativi e di così plateali e che vengono così dall'alto, questo sinceramente è un problema in più. Bene ha fatto lei a sottolineare il comportamento di Leonardo, come fa per esempio Marcello Milano in questo messaggio: sono fiero di avere un vero allenatore, non un servo sulla panchina del mio Milan. Questo è un messaggio, come dire, bello tostino, ma è anche però la verità di quello che si è capito dopo la reazione con le maiuscole di Leonardo alle critiche di Berlusconi, tra l'altro non inedita nei confronti degli allenatori, no? 10 anni fa toccava a Zaccheroni, al Sarto, no? Che aveva una grande stoffa, non la sapeva usare, l'altro anno Ancelotti era un cretino, come ricorderete, adesso sta toccando a Leonardo, però Leonardo sta, cioè non solo ha risposto a quella maniera, anche sul campo mi sembra che se la stia cavando in maniera passabile. Giuseppe, provincia di Messina, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Dica. È sempre un piacere parlare con lei. Le volevo chiedere, secondo lei il silenzio stampa imposto dall'Inter, dal presidente Moratti, non è un segno di debolezza di Moratti stesso, che anziché prendere Mourinho per le orecchie e portarlo davanti alle telecamere a chiedere scusa a tutta l'Italia per il gestaccio che ha fatto, ha imposto un silenzio stampa invece a dir poco inutile? Cioè l'Inter è l'unica squadra che quando l'arbitro non gli dà una rimessa laterale al centrocampo, in 4-5 puntualmente escono dall'area tecnica. Sì, è vero, questo purtroppo è vero. Vuol dire che Mourinho, prima di inquinare i pozzi del calcio italiano in genere, ha inquinato quelli nerazzurri, perché sinceramente si vedono scene sempre più fastidiose da quelle parti. A parte il fatto del ritardato inizio del secondo tempo, che ormai è diventato uno straclassico, da parte dell'Inter ormai da una lunga serie di partite, e mi sembra che nessuno faccia una piega. In teoria l'intervallo dovrebbe durare un quarto d'ora, con l'Inter di mezzo dura a piacere ormai da qualche tempo a questa parte. Non credo però che Moratti potesse fare altro che il silenzio stampa. Non, quello che lei dice è utopistico, anche se sarebbe stato molto educativo, indubbiamente. Ha evitato guai peggiori, chiedendo appunto, anzi imponendo di non parlare, insomma, di tacere, perché con quel livello di adrenalina mi sembra che di danni all'immagine dell'Inter Mourinho e alcuni dei suoi ne avessero già fatti a sufficienza. Hassan da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Zizi, grazie di avermi richiamato. Niente, penso che oggi tutti gli ascoltatori scenderanno pesanti con il personaggio Mourinho, perché quello che ha fatto veramente, secondo me lui si è dimenticato che la prima squadra in Italia da 2-3 anni è seguita da tutto il mondo, non solo da tifosi italiani. Un allenatore del genere deve stare attento a come fare le cose, perché secondo me Tagliavento ha arbitrato benissimo. L'unico sbaglio che ha fatto secondo me è non espellere Milito, perché va espulso Milito. Sono d'accordo con lei, l'entrata più brutta della partita è stata quella di, e più scientifica è stata quella di Milito, però lei capisce che Tagliavento ha già avuto una discreta dose di coraggio così, no? Se ne avesse espulso in altro e fossero arrivati in 8, ma è su quello che è questo continuo a spostare l'asticella della provocazione in avanti che Mourinho, oltre che dell'eccesso di carica ai suoi, è su questo che Mourinho sta sbagliando. Scrive il Corriere della Sera di stamani: in questo clima, no, prima racconta Fabio Monti, racconta questo. Ieri Massimo Moratti si è rivolto ai vertici istituzionali, ha avuto un lungo colloquio con Giancarlo Abete spiegandogli il senso delle sue inquietudini. Toni civilissimi, ma la risposta di Abete è stata ferma. Più o meno, apprezzo il silenzio adottato dalla partita con la Samp, condivido il senso di questa preoccupazione, che è anche la mia, perché certi atteggiamenti dell'allenatore dell'Inter, non soltanto nei confronti degli arbitri, ma degli stessi colleghi, non aiutano ad andare avanti in serenità. In questo clima si inserisce poi la presa di posizione degli arbitri. Scrive Fabio Monti, giustamente secondo me, senza rendersi conto che Tagliavento ha diretto bene, ma ha posto un problema di uniformità di giudizio non facile da risolvere per il futuro, perché adesso i fischietti minacciano di fermarsi, per protesta non solo contro l'Inter. Durissima la presa di posizione del presidente Laianicchi, è un delirio evidente a tutti, noi ci limitiamo ad arbitrare come stiamo facendo, il resto non merita una parola di più. Cioè, in altre parole, il coraggio che Tagliavento ha avuto contro la capolista, non contro, insomma, dirigendo la capolista, e a dispetto di un allenatore isterico e di uno stadio a cui si era trasmessa l'isteria dell'allenatore, nonostante questo ha avuto il coraggio di punire quasi tutto quello che andava punito, e comunque ben al di là di quello che avrebbero fatto molti suoi colleghi. Questo adesso diventa un problema, perché da ora in avanti si richiederà questa stessa severità. E dopo vi leggo un altro frammento in materia di Paolo Casarin, che è sempre un'opinione che vale la pena leggere o ascoltare. Torniamo in vostra compagnia, nel senso che sono molte, molte più del consueto le prenotazioni per intervenire. Mario Genova, buongiorno. Buongiorno signor Garantini. Dica. Senta, mi dia 30 secondi per esprimere una mia parere. Insomma. Sono scattati. Dunque, nell'ambito sportivo e senza offesa, vorrei dire al tifoso juventino che ha telefonato giovedì facendo la morale a Preziosi, un detto genovese che traduco in italiano. Il merlo dice al corvo: come sei nero? Dico questo perché negli ultimi 60 anni hanno vinto lo scudetto solo 6 squadre normali, il resto è stato vinto da società arroganti e con molti dubbi nella loro vittoria. È tutto, grazie, buongiorno. buongiorno a lei Mario, grazie di questo, ma continuo a pensarla insomma, alla stessa maniera di quel signore. Io poi le telefonate le ricordo per qualche minuto se va bene, ma questo non perché non mi interessi, no, perché la memoria è quella che è, e soprattutto l'ultima cancella sempre la precedente. Quel signore sosteneva, se non ricordo male, che Preziosi in tema di etica sportiva, così a grandi linee, non poteva dare lezioni a chi che sia. Beh, insomma, io con tutto rispetto per la sua tesi, credo che sia profondamente vero. Stefano ha chiamato da Napoli, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Buongiorno a lei. Se si ricorda, in occasione di Milan-Inter... Non mi ricordo. Le rammento io. Avevo chiamato in occasione del signor Mourinho, che avevo detto che era un istigatore. Cioè, Sabato ha superato addirittura se stesso. Io dico, sto signore dovrebbe chiedere un attimino scusa a tutti gli allenatori italiani. In più, napoletanamente, deve portare una guandiera di babà a tutti gli allenatori italiani. Deve portare una guandiera e babà. Una guandiera e babà. Perché questo professore di educazione fisica, che io quando ho fatto la scuola elementare, non ricordo che è un comportamento del genere. Neanch'io, non l'ho mai visto. Grazie a lei, Stefano, per la guantiere babà che Mourinho dovrebbe fare. Ma quello che offre a Mourinho? Mourinho è convinto di aver ragione, è convinto che gli vengano fatti continuamente dei torti. Io poi personalmente, nel caso di Inter Milan, avevo anche discretamente condiviso, non certo la forma, no? Mai la forma di Mourinho, ma insomma qualcosina di sostanziale poteva anche esserci quella volta. Stavolta sinceramente è indifendibile proprio, credo non ci siano margini, e credo che questo sia un motivo di preoccupazione che in questo momento, di cui in questo momento la società Inter si sta occupando. Se così non fosse, ci sarebbe da preoccuparsi ancora di più. Luca dalla provincia di Lucca, no, Luca dalla provincia di Lucca, fanno accenno che è cascato, e adesso mi ha attaccato Stefano da Napoli, questa cosa della guantiera e babà, lo ripeschiamo tra poco. C'è Antonio dalla provincia di Novara, buongiorno. Ah, buongiorno dottor Ganzi. Dica. Volevo chiedere proprio a proposito dell'arbitraggio di sabato sera. Allora, premetto, io sono tifoso interista e le dico subito che l'arbitro, il signor Tagliavento, per conto mio, ha arbitrato bene, ha azzeccato quasi tutto. Penso che ha sbagliato, l'unica cosa che ha sbagliato secondo me, oltre la storia di Milito, il secondo giallo a Pazzini, che secondo me non glielo doveva dare. casomai era il primo tempo quando ha fatto il fallo di reazione su Lucio, che magari qualcosa in più. Però io dico una cosa, lei ieri sera ha visto la partita di Bari-Milan? Certo. E cambia qualcosa dai falli? Mi dica, anzi, perché è uscito il centravanti del Bari? Per un fallo brutto di Gattuso a metà campo. Il primo, quello là che lui è andato con la suola del piede praticamente sulla caviglia dell'attaccante del Bari, giusto? Sì, arrivandoci però non dico senza vederlo, ma non arrivandoci con premeditazione da dietro. C'è arrivato... sono molto furbi i calciatori, come quando si buttano in area, anche quei falli lì sono studiati. Ma sono molto furbi fino a un certo punto, perché Samuel che entra in quella maniera dopo 9 minuti su Pozzi non è molto furbo. Cordoba che è già ammonito va a fare un fallo a 70 metri alla porta con l'altro girato, non è molto furbo. Ho premesso che io non ce l'ho con l'arbitro di Inter Sampdoria. Io ho detto che per me ha arbitrato bene, tranne un paio di cosette, per il resto ma è andata bene. Ha certamente arbitrato, però, lei sta dicendo che ha arbitrato molto meglio di quello di Bari ieri sera, assicuro, perché se quello di Bari ieri sera becca Bonera e dà rigore a Bari e lo caccia Bonera nel primo tempo, probabilmente la partita va diversa, no? In questo... E signor Gattuso avrebbe dovuto, perché il secondo fallo, la ginocchiata che gli ha dato, anche il secondo fallo che gli ha fatto all'attaccante del Bari, è stato per quel motivo che poi comunque è andato anche fuori attaccando il Bari. Allora, certo. due falli da dietro come ha fatto Gattuso, secondo me ci andavano due già. Lei ha ragione, ma la settimana prima c'erano stati due entrate a metà campo brutte a Napoli, una di Snyder e un'altra di Cambiasso, però quello che conta a questo punto, bisogna provare a salvare il salvabile, quello che conta è smetterla perlomeno con quegli atteggiamenti, con quegli eccessi, perché davvero diventa difficile. Cioè, io mi domando ma chi va a arbitrare l'Inter la prossima partita o le prossime partite, in che stato d'animo? Fanno la gabbia invece di quella di Orrico per Mourinho, fanno la gabbia da qui in avanti o cosa fanno? Ma non è per è che ormai ci sta tutto. Abete stamane a questa commemorazione di Candido Cannavò, un calcio sovraccitato non fa bene alla crescita culturale del movimento, lo credo che non faccia bene, anzi fa molto male, però io credo che non sia, insomma, non sarà facile trovare il modo di uscirne, però è anche vero che qualcosa va fatto e non mi sembra un momento da eufemismi. Vediamo queste dichiarazioni di Moratti che sono appena usciti. In questi giorni ha parlato anche lui della commemorazione di Cannavò. In questi giorni Candido Cannavò mi avrebbe bacchettato, ha detto Moratti, perché non avrebbe capito le esibizioni di qualcuno all'interno della mia squadra. Lo ha detto il presidente Massimo Moratti, avvicinato ai giornalisti, riferendosi al gesto dei polsi incrociati e mimare le manette fatte da José Mourinho. Cosa significa? Si è chiesto, lo ha fatto lui lo sa e lui ce lo deve spiegare. Forse intendeva che vogliono fermarci, ha ipotizzato Moratti. Questo fatto conforta ma anche stanca, però condurre in porto una partita di 9 uomini può essere una carica psicologica e darci coraggio. Giocando a Milano non dobbiamo avere complessi di inferiorità, servirà attenzione, concentrazione e un po' di fortuna. Aggiungendo che il criticatissimo silenzio stampa della squadra è un modo per non disperdere energie ed è figlio di un ragionamento abbastanza normale per tutti i casini che ci sono. Ma insomma, non lo so, decrittandola così a primissima vista... Non mi sembra che sia, come dire, una dichiarazione di giubilo per il comportamento di Mourinho e degli isterici che in campo si sono fatti condizionare da Mourinho, a cominciare da quello che ha aperto le ostilità, che è stato Stankovic dopo un paio di minuti, tanto per cambiare genere una volta. Marco da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Garanzini. Dica. Volevo tanto per cambiare parlare di Mourinho. Sì. E, come diceva lei giustamente, è andato molto fuori dalle righe, certamente. E ora si pone il problema che gli arbitraggi si dovranno in qualche modo uniformare a quello che è stato il coraggio di Tagliavento, perché sennò alla fine va a picchiare ragione Mourinho, insomma. Sì, infatti, questo è uno dei problemi che ci sono, però insomma, gli arbitri, io dovessi essere un arbitro in questo momento, credo che se mi dovessero designare per l'Inter, non sarei particolarmente felice, perché in qualunque maniera mi comporti, cioè sarei non condizionato ovviamente, ma sarei a disagio già prima, perché non è semplicissimo scendere in campo a questo punto. Un ascoltatore fa notare che, a proposito della telefonata di prima, degli errori fatti ieri sera da Gava a Bari, a danno del Bari indubbiamente, fa notare che Ventura li ha fatti rilevare alla fine, ma non si è certamente comportato in campo come Mourinho, ma certamente no, Ventura è uno del 48 come me, quindi noi siamo una razza, no, ma intendo dire che Ventura è un gran signore ed è uno che conosce anche il calcio, ma prima ancora del calcio conosce l'educazione e i comportamenti. Comunque, insomma, qualcuno, Moratti ha provato a spiegare il senso del gesto delle manette, vediamo se qualcun altro ci arriva vicino. Mariano, provincia di Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno Granzini. Sì. Io volevo fare due domande che però vanno sotto lo stesso segno, diciamo, dell'ipocrisia un po' dilagante. E cioè, mi riallacciavo anche a Bayern-Fiorentina e a quello che lei pensa sull'utilizzo di aiuti tecnologici durante le partite, ma non sarebbe una cosa che sgombrerebbe il campo da equivoci per non vedere rigori dati come quello di Miccoli o non dati come quello di Bonera o Boninsegna Rotterdam sradicato in mezzo all'area dal terzino destro dell'Olanda? Insomma, cioè, le ingiustizie, il gol di Berti ai mondiali contro l'Inghilterra annullato, insomma, quando è troppo, forse un challenge a tempo per i casi più clamorosi non sarebbe una cosa così devastante per il calcio. La seconda domanda, ho visto un articolo sulla Gazzetta di oggi molto interessante, della preoccupazione che sta venendo fuori perché sembrerebbe che la VADA non riuscirebbe a trovare la marijuana come sostanza dopante per i calciatori. Sì. Ecco, vabbè, allora se dobbiamo continuare a pensare che cocaina e marijuana migliorano le prestazioni degli sportivi, va bene tutto, andiamo avanti così. La saluto e la ringrazio. Grazie a lei Mariano, l'ho letto anch'io. E mi è sembrato discretamente inquietante. Ieri sera un incidente d'auto per Julio Cesar, il portiere dell'Inter, nel quartiere di San Siro, ma il brasiliano avrebbe riportato solo alcune contusioni al volto. Questa mattina si è recato regolarmente da Piano Gentile, dove però non si è allenato. Secondo quanto si è preso, Julio Cesar sta bene, non dovrebbe essere in dubbio il suo impiego mercoledì sera contro il Chelsea. Il ripasso di storia, 22 febbraio, con Nicola Filippone. Sembra ieri. 22 febbraio 1953. Alla 22esima giornata la Juventus travolge la Fiorentina con un umiliante 8-0. Alla goleada partecipano Boniperti, Carapellese e John Hansen con una doppietta a testa. Gli altri due gol portano le firme di Vivolo e del danese Prest. A fine torneo i bianconeri dovranno accontentarsi del secondo posto, ma con 27 reti in più all'attivo rispetto ai campioni d'Italia dell'Inter. Il Bari non perdeva in casa dal 23 settembre, 0-1 con il Cagliari, ma certamente la squadra di Ventura è in flessione, ha vinto solo una partita nelle ultime 7 e con 4 sconfitte. Una delle curiosità che mi ha segnalato Franco Piantanide, di giornata l'Inter non vince da 3 partite, sono 3 pareggi consecutivi Parma, Napoli e Sampdoria, in cui si è fatta rimontare appunto 6 punti dalla Roma. La Juventus non vinceva 2 partite di fila pensate dalla 12esima e 13esima giornata, cioè da 20 giornate, credo non sia mai successo nella storia della Juventus. Malesani è imbattuto in carriera col Napoli, in 7 partite, 2 vittorie e 5 pareggi. Tocca ad Antonio dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno e complimenti signor Galazzini. Due cose volevo dire. La prima, non fanno disperare diciamo, i tifosi, quelli che amano il calcio, e le dichiarazioni che ha fatto Leonardo, che sono sinceramente, almeno da parte mia, apprezzabilissime, così come quelle di Ventura, e quelle fanno da corollario alle dichiarazioni che ha fatto in due occasioni il mister Cappello, denunciando di fatto la situazione di schizofrenia che c'è nel calcio italiano dopo che hanno detto che non c'è più la tessera del tifoso, sono partiti bombe carte, violenze, attacchi alle squadre, eccetera, cose che francamente vanno contro quello che è un minimo di buon senso, non parlo di educazione, ma un po' di buon senso che francamente manca. E dentro questo contesto non mi scandalizza più ormai quella che è una costante delle provocazioni che Mourinho fa. Certo. Il dramma vero purtroppo è che ha anche buoni allievi, perché su questo mi permetta di dire che sono bravi a lamentarsi l'allenatore del Napoli, che adesso mi sfuma, Zarri. Ma no, ma il suo presidente, ma ieri ha debuttato mezza Roma, ha debuttato Lotito, cioè, ma questo è il folklore domenicale triste dei nostri dopo partita, però è diverso, eh? Cioè, altro è il lamento finale, la polemica sterile, questa commediola patetica che va in onda da sempre nel nostro campionato e non solo nel nostro. Altro è quello che ha combinato Mourinho. Massimo da Verbania dice: scusi, ma cosa ha scritto Casarin? L'ha già dimenticato? Sì, Massimo, l'avevo dimenticato, adesso l'ho ripescato, grazie di averlo ricordato. Nel gioco del calcio, ha scritto stamane su Corriere della Sera Casarin, nello spazio di pochi giorni può capitare di vedere all'opera Ovrej, Tagliavento e diversi altri abiti di Serie A, tutti al top della carriera e pertanto confrontabili, e tutti impegnati da partite contrattenute in area, molti falli di gioco gravi e un diffuso ricorso alle simulazioni. Alla fine si può dire che Ovrej ha trascurato cartellini rossi di facile individuazione e non ha annullato un gol segnato in fuorigioco di 2 metri. In sostanza non ha arbitrato e perciò ha falsato l'incontro. Poi trovi un glaciale Tagliavento che vuol vedere e decidere liberamente sulle scarrettezze dei calciatori, con una precisione umana che può sembrare persecutoria perché la incontri raramente. Verrebbe da dire che ha arbitrato troppo. Mi sembra un'osservazione molto intelligente. Vedo molti nomi ancora sul display. Per starci tutti dobbiamo stringere un po'. Piero da Lucca, buongiorno. Buongiorno Garanzini, è la prima volta che parlo con lei, anche se l'ascolto sempre. Piacere. Volevo andare un po' sul gossip, volevo cambiare un attimo perché la scorsa settimana ero malato, non l'ho seguita, e volevo un suo parere, con il quale spesso concordo, sulla partecipazione di Marcello Lippi al Festival di Sanremo. Se questa, che è venuta fuori, non mi ricordo in che giorno, è l'Italia che noi italiani però dobbiamo tifare, ai mondiali io preferisco tifare altre squadre. Grazie, sì, oppure... la sua risposta e mi fa piacere se me la dà. Sì, Piero, l'ho pensato quasi, non io mi sono regolarmente fortunatamente astenuto da Sanremo, ma ho letto poi sui giornali di quella partecipazione, ho letto come si era articolata, che cosa Lippi aveva detto, l'ho visto in ogni caso effigiato in fotografia di fianco a Vittorio, Emanuele Filiberto, mi sembra, e ho pensato che il signore li fa e poi li accoppia, tutto qua. Andrea da Verona, buongiorno. Buongiorno Garanzini, grazie e complimenti per la trasmissione. Dica. Volevo dire semplicemente una cosa: quello che manca, gli arbitri sbagliano, gli arbitri fanno giusto, ma quello che vedo che manca assolutamente è un patrimonio enorme, che è quello della fiducia. I calciatori si buttano in area, i calciatori sembrano che vengano colpiti da pallottole tremende appena un contrasto. Io guardo spesso al sabato pomeriggio la Premier League inglese e vedo questi Marcantoni di 2 metri per 100 kg spingersi, ma non vedo nessuno cadere come se dovesse fare il tuffo in piscina o robe del genere, trarre in inganno l'arbitro vale tanto quanto un errore di un arbitro, e i calciatori sono tra i maggiori responsabili di questo andamento. Non c'è nessun dubbio su questo, i calciatori vanno educati intanto da tanti punti di vista, vanno tenuti a freno, vanno calmati più che sovraeccitati. E questo mi sembra particolarmente di attualità, no? Alla luce di quello di cui stiamo parlando oggi. Ancora due persone già collegate. Uno è Giovanni da Torino, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica lei. 3 cose velocissime. Allora, io sono romanista, quindi se poteva spendere 2 parole sulla Roma, e soprattutto volevo sapere se con il più avanti, l'innesto di Toni e Totti che dovranno prima o poi rientrare, se sarebbe meglio quella squadra oppure quella operaia che si sta vedendo in questi giorni, che magari non è bellissima, però vince. 1. 2, qualcosa anche sul Cagliari. E tre, si parla tanto di Amauri nazionale, Amauri nazionale, ma un certo Matri non farebbe comodo la nazionale? Grazie. Ma la nazionale fanno comodo tutti, insomma, Amauri credo che sì, ci sia questo lieve ritorno per il momento, ma non certamente tale da integrare una candidatura, oltretutto con i problemi che conosciamo che si porterebbe dietro, no? dell'oriundo, micro oriundo, eccetera. Cagliari è uno spettacolo assoluto, sia per qualità che per risultati. La Roma io credo che abbia dato molto, perché adesso è arrivato a 7 vittorie consecutive. È vero che aspetta ancora Totti e Toni, e che quindi ha dei margini di miglioramento ulteriore. Però io credo che abbia dato molto, e credo che è vero che avendone mangiati 6 in tre domeniche, 5 punti sono davvero pochi, però continuerei a tener conto della differenza di rose tra Inter e Roma, e al posto dei romanisti non mi farei eccessive illusioni in prospettiva. Gianfranco, ancora da Torino, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Due cose molto veloci. D'accordo che io sono dell'Inter e sono d'accordo su quasi tutte le decisioni di Tagliavento, se non tutte addirittura. Però da adesso in avanti cosa succederà? Perché quello che manca è l'uniformità di giudizio, secondo me, che a prescindere da Mourinho che esagera, e sono d'accordo con lei. Però noi tifosi a volte vediamo determinate situazioni che vengono valutate in un modo e determinate altre situazioni che vengono valutate certo, questo è il problema eterno dell'arbitraggio, insomma, no? Italiano e non. Questa è la prima cosa. La seconda? Prego? La seconda cosa? No, la seconda cosa era questo: che cosa accadrà da oggi andando in avanti, quanti tagliavento troveremo e se ci saranno poi degli altri tagliavento che avranno il coraggio di prendere giustamente... Ma mi auguro, Gianfranco, mi auguro di sì e mi auguro che anziché vedere in giro delle manette, mi auguro che si arrivi alle camicie di forza, che credo che sia l'unica soluzione. A questo punto, grazie a lei, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Fabio Cantadoni in regia, a Flavio Suarni in redazione. Buon pomeriggio.